con Elisa Simonelli per parlare del prossimo appuntamento di Ugo, il volume 8 a Roma, al Monk, l'8 dicembre. Elisa, ben trovata. Ciao. Raccontaci un po'. Eccolo qua, sì, andiamo in scena, come hai detto tu, il sabato 8 dicembre alle ore 21 al Monk, il 17.45. Questo è il volume 8 di Ugo, andranno in scena Cristiana Vaccaro, Cristina Pellegrino, Francesca Stassi, Annalisa Bianchi Cordone, Arianna Dell'Arte, Paola Mitolini, che sono un po' lo zoccolo duro di questo collettivo Ugo. E poi ci saranno anche pezzi di Veronica Raimo, i miei, Andrea Scena, Marta Miti, Daniela Delle Foglie, Emanuela Fanelli, Giulia Nervi, poi voglio ricordare Lino Ciolli, Federica Tuzzi, Nicol Balastone, Barbieri, insomma sì, Carmen Barbieri, insomma siamo tante. Andiamo in scena, ad andare in scena è Ugo, che è il nostro collettivo di autrici, attrici e performer. Ecco, raccontiamo un po' la formula per chi non la conoscesse di Ugo. Ugo è un acronimo che sta per Identified Gap Object, oggetto non identificato, anche un po' fastidiato, cioè un nome anche un po' simpatico per raccontare quella che è la creatività di tutta una serie di donne che si esibiscono, appunto dicevo, autrici, attrici, performer. È un progetto, è un collettivo, è un progetto aperto, è in divenire, infatti è un po' difficile definire in modo rigido il nostro Ugo, perché sai, si costruisce strada facendo, a volte prende alcune forme che anche a noi sorprendono ed è per questo che ci divertono e probabilmente per questo divertono anche il pubblico. Diciamo che è uno spettacolo contenitore di diversi monologhi, massimo 8 minuti l'uno, e si susseguono questi monologhi sul palco, sempre con un ritmo molto veloce. Non ci diamo un tema, perché sarebbe un po' come mettersi dentro una gabbia in questo modo, però poi alla fine dello spettacolo ti rendi conto che è tutto costruito in una maniera armonica, insomma, non c'è un tema ben preciso, però più o meno tutti i monologhi si vedono in qualche modo. E ci sono anche momenti musicali. Ci sono anche momenti musicali, sempre con una esibizione tra una prima parte e l'altra. Da parte di qualcuno che varia ogni volta per ogni puntata, e in realtà questo è bello, che ogni volta che noi andiamo in scena i testi sono inediti, cioè ogni volta il testo musicale, i testi teatrali, è tutto nuovo, quindi per noi è come una prima tutte le volte, e quindi una grande sperimentazione poi per tutti quanti noi. E per il pubblico è anche divertente perché puoi venirci a vedere anche tutti i mesi praticamente, sì. Non sa mai mai, insomma, anzi, venite, venite, perché appunto ogni volta è diverso dall'altra. Sì. Una cosa che ci tengo a dire è che l'aspetto divertente di Ugo è che Ugo è un continuo sperimentare, è un contaminare per inglobare poi in sé diversi stili. L'anima di Ugo è quella di stimolare la scrittura, la creatività, creare nuove sinergie, nuove alleanze artistiche. Quindi proprio perché ha questa natura poi si espande, prende sempre una forma diversa, ma nonostante ciò comunque è un format ben definito, nonostante questa apertura, questa continua contaminazione, ha una sua identità ben precisa e irriconoscibile, che più si va avanti e più acquista forza. Quindi Certo. questo forse è quello che posso dire senza presunzione, quello che fa la differenza. Sì. Diciamo che quello che fa la differenza in Ugo sono un po' i suoi componenti, cioè noi, onestamente, stai risaltata, no? No, dai, a parte questo, cioè, un po' la nostra comunione di intenti, cioè noi ci vogliamo divertire e far divertire chi viene a vederci. Sì. È un collettivo in cui si fa crescere la creatività, sì, e speriamo che questa botta creativa possa arrivare dritta al cuore anche a chi ci viene a vedere, al pubblico. Ognuna di noi è una professionista che viene da mondi anche alcuni simili, altri diversi, cioè chi viene dall'Accademia del Giovanito, chi fa stand-up comedy da sempre, chi recita al teatro, in televisione, al cinema, però chi come me magari viene dal giornalismo, dalla scrittura, io ho sempre pubblicato cose diverse, penso al libro di poesie, però comunque ognuna di noi porta dentro un questo background. E lo prendo con quello delle altre, quindi, perché c'è un desiderio di crescita e di condivisione da parte di tutti, e quindi quello che esce fuori poi è pazzesco, mi spunge pazzesco, che si chiama Ugo, appunto. Sì. Elisa, ecco, visto il tuo percorso differente, com'è stato il tuo arrivo ad Ugo? Come sei entrata a far parte del progetto? chiamato Cristiana Vaccaro, che è una delle ideatrici di questo progetto, come ti dicevo, fa un po' uno gioco di duro, lungo. Fin dall'inizio, diciamo, appena si è formato, sono stata una delle prime che Cristiana ha chiamato, perché ci eravamo conosciute, ma poi aveva letto delle cose che avevo scritto io, mi seguiva un po' nei percorsi professionali e mi piaceva. E quindi pensava che sarei stata giusta come componente vivo. E in effetti, guarda, io la prima volta che sono andata alla prima riunione, sono andata a vedere di cosa si trattasse. Ho incontrato Francesco Scassazzo, la Pellegrino, c'era Arianna Dell'Arci, Paola Mitolini. Mi sono piaciuta subito, mi sono trovata proprio bene, aveva ragione Cristiana. Sì, devo dire, sai, non è facile perché noi siamo tutte donne. A volte tra le donne si possono creare dei territori difficili di interazione, però quando sei sulla stessa lunghezza d'onda, poi quando si può creare invece una complicità senza rivalità, allora a quel punto si danno vita, si dà vita e sinergia che possono spostare il mondo. E allora ricordiamo l'appuntamento con Ugo, il volume 8 a Roma, al Monk, sabato 8 dicembre. Un saluto e un ringraziamento ad una delle anime, Elisa Simonelli. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Tra di nuovo, un abbraccio.